Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer. Traduzione di Bruno Dera. Scese la sera, e a parte la camera da letto, l'appartamento rimase al buio. Herman svitò la lampadina dal lume della camera da letto per portarla nella sua stanza, urtò contro lo stipite della porta e udì il filamento crepitare, avvitò la lampadina sul lume del comodino, ma non si accese più. Andò in cucina a cercare fiammiferi e candele, ma non trovò niente. Rimase alla finestra guardando fuori nella notte. L'albero, ogni cui foglia aveva riflesso poche ore prima il gioco della luce solare, si profilava nero contro le tenebre. Una singola stella ammiccava nel cielo rossastro, un gatto attraversò il cortile a passi cauti e strisciò in un varco tra i rottami metallici e i rifiuti. In lontananza echeggiavano grida, il rumore del traffico e il rombo soffocato della sopraelevata. Herman si sentì pervaso da una malinconia intensa, come non l'aveva provata mai. Non poteva restare solo per tutta la notte in quell'appartamento saccheggiato e buio. Se Cifra Pois fosse morta, il suo spirito sarebbe potuto venire a tormentarlo. Decise di uscire e di acquistare qualche lampadina. Inoltre, non aveva più creato cibo di dopo colazione, uscì dall'appartamento e subito dopo essersi chiuso la porta alle spalle, si rese conto di aver dimenticato la chiave. Si furgò le tasche, pur sapendo che non l'avrebbe trovata. Doveva averla messa sul tavolo. Il telefono cominciò a squillare in casa. Herman spinse la porta, ma era ben chiusa. Gli squilli non cessavano. Herman spinse con tutte le sue forze, ma la porta non cedette e il telefono continuò a squillare. «È Masha! Masha!» Non riusciva nemmeno a ricordare in quale ospedale avessero portato Cifra Pois. Il telefono smise di suonare, ma Herman rimase in piedi, accanto alla porta. Si domandò se dovesse provarsi a sfondarla. Era certo che il telefono avrebbe ricominciato a squillare di lì a poco. Aspettò 5 minuti buoni prima di scendere le scale. Proprio quando arrivò nell'androne, gli squilli ricominciarono e continuarono per parecchi minuti. Herman immaginò di poter udire la furia di Masha in quel suono insistente. Ne vide la faccia deformata dalla sofferenza. Era inutile tornare indietro. Si incamminò nella direzione di Tremont Avenue e arrivò fino al ristorante dove Masha aveva lavorato come cassiera. Si avvicinò al banco, toccò il taschino del panciotto e vi sentì una chiave, ma era la chiave del suo appartamento a Brooklyn, con Jadwiga. Invece di ordinare un caffè, pensò di telefonare a Tamara, ma tutte le cabine erano occupate. Si sforzò di essere paziente. Anche l'eternità non dura eterno, gli accadde di pensare. Se il cosmo non ha avuto alcun inizio, allora un'eternità è già passata. Sorrise tra sé se era tornato ai paradossi di Zenone. Una delle tre persone che conversavano al telefono riattaccò. Herman si affrettò a prendere il posto nella cabina, formò il numero di Tamara, ma non rispose nessuno. Recuperò la monetina e senza riflettere fece il decimo numero dopo sottare il metodo a Clutin. Aveva bisogno di udire una voce familiare, anche se ostile, ma anche Jadwiga non era in casa. Sedette poi a un tavolino libero. Decise di aspettare una mezz'ora e di telefonare all'appartamento di Masha. Si tolse di tasca un pezzo di carta e cercò di calcolare per quanto tempo Masha e lui avrebbero potuto tirare avanti con il denaro che avevano. Era un tentativo futile, perché non sapeva quanto costassero i biglietti del torpedone. Calcolò, tracciò Grigori e ogni pochi minuti consultò l'orologio da polso. Quanto ne avrebbe ricavato se fosse stato costretto a venderlo? Non più di $1. Rimase seduto, cercando di riassumere la situazione. Nel fienile si era fatto l'illusione che qualche cambiamento fondamentale intervenisse nel mondo, ma niente era cambiato. Sempre la stessa politica, le stesse frasi, le stesse false promesse. I professori continuavano a scrivere libri sull'ideologia dell'assassinio, la sociologia della tortura, la filosofia dello stupro, la psicologia del terrore. Gli inventori creavano nuove armi micidiali. Le chiacchiere sulla cultura e la giustizia erano più rivoltanti della barbarie e dell'ingiustizia stessa. Sono affondato nei rifiuti e sono io stesso un rifiuto. Non esiste via d'uscita, mormorò. Insegnare? Che cosa c'è da insegnare? E chi sono io per insegnare? Si sentiva cadere alla nausea, così come lo era stato la sera del ricevimento del rabbino. Dopo 20 minuti formò il numero di Masha e lei rispose. Capì dalla voce di lei che Shifra qua era morta. Una voce senza tono, proprio l'opposto dello stile iperdrammatico con il quale lei comunicava le notizie più comuni. «Come sta tua madre?» domandò ciò nonostante. «Non ho più madre», rispose Masha. Tacquero entrambi. «Dove sei?» lei domandò, dopo un momento. «Credevo che mi avresti aspettata. Dio del cielo, quando è successo?» «È morta prima di arrivare all'ospedale. Le sue ultime parole sono state... «Dov'è Herman? Dove sei? Torna subito qui!» Lui corse fuori dal ristorante, dimenticando di restituire lo scontrino alla cassiera che gli gridò dietro. Glielo lanciò. Ma non vide nessuno. L'appartamento rimaneva immerso nell'oscurità come quando ne era uscito. Rimasero vicini, in silenzio. «Sono sceso per comprare qualche lampadina e mi sono chiuso fuori», le disse. «C'è una candela in casa, in qualche posto?» «Per farne che?» «No, non ci serve». La condusse in camera sua. Lì c'era un po' più di luce. Si lasciò cadere su una sedia e Masha sedette sulla sponda del letto. «Non lo sa ancora nessuno?» le domandò. «Non lo sa nessuno, e nessuno se ne cura. Devo telefonare al rabbino?» Masha non rispose. Herman stava cominciando a pensare che nel suo dolore non lo avesse sentito, ma a un tratto lei disse, «Herman, non resisto più, queste cose implicano formalità e richiedono anche denaro. Dov'è il rabbino? È sempre all'istituto?» «L'ho lasciato là, ma doveva partire in aereo per qualche posto, non ricordo più dove. Cercherò di telefonargli a casa. Hai un fiammifero? Dov'è la mia borsetta? Se l'hai portata a casa, la troverò». Herman si alzò e andò a cercarla. Dovette procedere a tastoni, come un cieco. Tastò la superficie della tavola e delle sedie in cucina. Avrebbe voluto entrare nella camera da letto di Chiffrepoix, ma l'idea lo spaventava. Non poteva darsi che Masha avesse lasciato la borsetta all'ospedale? Tornò da lei. «Non riesco a trovarla. L'avevo. Ne ho tolto la chiave di casa». Masha si alzò ed entrambi brancolarono nell'oscurità. Una sedia si rovesciò e Masha la tirò su. Herman entrò a tastoni nel bagno e, per abitudine, fece scattare l'interruttore. La luce si accese ed egli vide la borsetta di Masha sulla cesta della biancheria. Ai ladri era sfuggita la lampadina sopra l'armadietto dei medicinali. Herman prese la borsetta, stupito del suo peso, e gridò a Masha che l'aveva trovata e che nel bagno era rimasta una lampadina. Sbirciò l'orologio da polso, ma aveva dimenticato di caricarlo e si era fermato. Masha si affacciò sulla porta del bagno, con un viso mutato, coi capelli in disordine, gli occhi socchiusi. Herman le porse la borsetta, non riusciva a guardarla negli occhi, le parlò con la faccia voltata da un lato, come un pio ebreo che non può guardare le donne. «Devo avvitare questa lampadina sulla lampada accanto al telefono». «A quale scopo, Herman?» Herman svitò con cautela la lampadina e la tenne contro il proprio corpo. Si sentiva colmo di gratitudine perché Masha non lo rimproverava, non piangeva e non faceva una scenata. Avvitò la lampadina e provò una momentanea soddisfazione quando si accese. Telefonò al rabbino e gli rispose una donna. «Rabbi Lampert è andato in California». «Ha un'idea di cui dovrà tornare?» «Non meno di una settimana». Herman sapeva che cosa significava questo. Se fosse stato lì, il rabbino si sarebbe occupato delle formalità e probabilmente avrebbe sostenuto le spese del funerale. Esitò, poi domandò dove si potesse trovarlo. «Non posso dirglielo», rispose la donna in tono ufficioso. Herman spense la luce, senza sapere bene perché. Tornò in camera sua. Masha sedeva là, con la borsetta sulle ginocchia. il rabbino è partito per la California. Beh, e allora? Da dove cominciamo? Domandò Herman, tanto a Masha quanto a se stesso. Masha aveva detto una volta che né lei né sua madre appartenevano a qualche organizzazione o sinagoga che si occupasse dei funerali dei propri iscritti. Tutto avrebbe dovuto essere pagato da lei, il funerale, il terreno al cimitero. Herman avrebbe dovuto parlare con i funzionari, chiedere favori, credito, fornire garanzie, ma chi lo conosceva? I suoi pensieri andarono agli animali. Vivevano senza complicazioni e non infastidivano nessuno quando morivano. Masha, non voglio vivere. Una volta mi promettesti che saremmo morti insieme, Herman. Facciamolo adesso. Ho abbastanza sonnifero per tutti e due. Sì, prendiamo il sonnifero, egli disse, senza sapere se lo pensasse sul serio. È nella borsetta, ci occorre soltanto un bicchiere d'acqua. Quello lo abbiamo. La gola gli si strinse e soltanto a stento riuscì a pronunciare le parole. Il modo com'era accaduto e la rapidità con cui tutto stava arrivando al momento culminante lo sconcertavano. Sentiva il rumoroso tintinnare e raschiare delle chiavi, delle monete, del rossetto per le labbra, mentre Masha frugava nella borsetta. «Ho sempre saputo che sarebbe stata il mio angelo della morte», pensò. «Prima di morire mi piacerebbe sapere la verità», si sentì dire. «A proposito di che, Herman? Se mi sei stata fedele da quando stiamo insieme. E tu? Sei stato fedele a me? Se dirai la verità, la dirò anch'io. Dirò la verità. Aspetta, Herman, voglio fumare una sigaretta». Masha sfilò la sigaretta dal pacchetto, faceva ogni cosa adagio. La sentì far rotolare l'estremità della sigaretta tra il pollice e l'indice. Lei accese un fiammifero e nel bagliore della fiammella lo fissò, interrogativa. Aspirò, spense il fiammifero soffiandoci su e la capocchia continuò a splendere per un attimo, illuminando le l'unghia. «Bene, sentiamo», disse Masha. Herman dovette fare uno sforzo per parlare. «Soltanto con Tamara, tutto qui». «Quando?» «Si trovava in un albergo in montagna». «Non sei mai andato in montagna?» «Ti dissi che andavo ad Atlantic City con Rabbi Lampert». «Ora tocca a te», disse Herman. Masha proruppe in una risatina breve. «Quello che tu hai fatto con tua moglie?» «Io l'ho fatto con mio marito». «Sicché, questo significa che Leon Turchiner disse la verità?» «Quella volta sì. Andai a chiedergli il divorzio e lui insistette, disse che avrei potuto ottenerlo soltanto in quel modo. Pronunciasti un sacro giuramento affermando che aveva mentito. Giurai il falso». Rimasero seduti in silenzio, ognuno con i propri pensieri. «Non c'è più nessuno scopo a morire adesso», disse Herman. «Che cosa vuoi fare? Abbandonarmi?» Herman non rispose. Rimaneva seduto, la mente vuota. Poi disse: Masha, dobbiamo partire stanotte stessa. Persino i nazisti consentivano agli ebrei di seppellire i loro morti. Non siamo più ebrei, Masha, e io non posso più trattenermi qui. Che cosa vuoi farmi fare? Sarò maledetta per 10 generazioni a venire. Siamo già maledetti. Perlomeno aspettiamo sin dopo il funerale. Masha riuscì a malapena a pronunciare l'ultima parola. Herman si alzò. Io parto subito. Aspetta, però con te. Lasciami andare un momento in bagno. Masha si alzò. Trascinò i piedi camminando. I tacchi delle scarpe raschiavano sul pavimento. Fuori, l'albero si profilava immobile nella notte. Herman gli disse addio. Per l'ultima volta cercò di snodare il mistero. Udì scrosci d'acqua. A quanto pareva Masha si stava lavando. Rimase silenziosamente in piedi, ascoltando attento, meravigliato di se stesso e della decisione di Masha di partire con lui. Masha uscì dal bagno. Herman, dove sei? Sono qui. Herman, non posso abbandonare mia madre, disse lei sommessamente. Dovrei abbandonarla in ogni caso. Voglio una tomba accanto alla sua. Non voglio giacere tra estranei. Giacerai accanto a me. Tu sei un estraneo. Masha, io devo andare. Aspetta un secondo. Già che le cose sono in questo modo, torna dalla tua contadina. Non abbandonare tuo figlio. Abbandonerò tutti, disse Herman. La notte prima di Shavuot, Yadviga diede alla luce una bambina. Il rabbino aveva proposto di chiamare la creaturina Masha se fosse stata una femmina. Aveva provveduto lui a tutto, i funerali di Shifrapua e di Masha, le spese ospedaliere di Yadviga. Aveva acquistato una carrozzina per bambini, coperte, una culla, persino giocattoli. Reb Abraham Nissen e Sheva Hadass si erano decisi a restare in Israele e Tamara aveva preso definitivamente possesso dell'appartamento e della libreria di suo zio. Poiché Tamara non voleva che Yadviga vivesse sola, aveva disposto affinché lei e la bambina venissero a stare con lei. Lavorava tutto il giorno nel negozio e Yadviga badava alla casa. Masha aveva lasciato il solito biglietto. Nessuno era responsabile della sua morte. Chiedeva di essere seppellita accanto alla madre. Poiché il rabbino si trovava in California, poco mancò che venissero sepolte entrambe nel cimitero dei poveri. Passarono 2 giorni senza che nessuno sapesse che cosa era accaduto. Stando a un articolo pubblicato in un giornale yiddish, Masha era apparsa a Yasha Kotik, comunicandogli la propria morte. La mattina dopo Yasha Kotik telefonò a Leon Torshiner. Torshiner, che aveva ancora la chiave dell'appartamento di Masha, vi si recò e trovò il suo cadavere. Fu Torshiner a mettersi in contatto con il rabbino in California. Questa versione dei fatti venne successivamente smentita con una lettera scritta al giornale da una vicina di Masha. La vicina sosteneva di aver telefonato all'ospedale e di essere venuta a conoscenza della morte di Shifrapua e del fatto che nessuno reclamava il cadavere. Aveva allora chiamato il portiere, la porta dell'appartamento era stata aperta e là si trovava il cadavere di Masha. Il rabbino faceva spesso visita a Tamara e alla piccola Masha. Molte volte parcheggiava l'automobile davanti alla libreria e andava a curiosare tra i volumi. Mandava a Tamara clienti e persone che le regalavano libri o glieli facevano pagare pochissimo. Ordinò un unico cippo funebre per madre e figlia a un marmista di Canal Street, la cui officina si trovava a un isolato di distanza dalla libreria di Tamara. Tamara aveva fatto inserire numerose volte il nome di Herman nelle colonne delle persone scomparse pubblicate dalla stampa yiddish, ma senza alcun risultato. Riteneva che Herman si fosse ucciso oppure si nascondesse in una versione americana del fienile polacco. Un giorno il rabbino avvertì Tamara che a causa dell'olocausto erano state revocate le restrizioni precedentemente in vigore per cui le mogli abbandonate avrebbero ora potuto rimaritarsi. E Tamara rispose: «Forse, in quell'altro mondo, con Herman».